alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Claudio Bigagli legge Il deserto della Libia di Mario Tobino. Sirte è un piccolo paese arabo situato sulla costa del deserto sirtico. Da secoli a quelle poche case circondate dal deserto e dal mare vi giungono i cammellieri del Sahara per il commercio della lana. In passato era anche una delle soste per coloro che erano diretti in pellegrinaggio alla Mecca. La 31esima sezione di sanità vi arrivò una sera dell'estate 1941. Il paese, a causa della guerra, era del tutto abbandonato dagli abitanti. La sezione si accampò davanti al mare, in parte sotto le tende, in parte nelle tettoie arabe. Nonostante che quella si potesse considerare zona avanzata, i giorni presero a susseguirsi tranquilli, libici, con gli intervalli del Ghibli e i continui nostalgici ricordi dell'Italia. Soltanto, davanti ai soldati, dopo tanti mesi di sabbia, c'era qualcosa di miracoloso e ancor più meraviglioso perché a contatto col deserto, cioè il mare, che richiamava con le onde infiniti pensieri italiani. Ma una notte due apparecchi inglesi sorvolarono Sirte, forse diretti a Tripoli. I tedeschi, che anche loro erano a Sirte in attesa dell'avanzata, sempre curiosi della guerra, al loro passaggio accesero nel cielo i riflettori. I due apparecchi, richiamati dalla luce, interruppero il viaggio, sorvolarono ripetutamente Sirte e cominciarono a sganciarvi le bombe. Una scoppiò presso il campo di aviazione, dove erano tende di soldati. Altre colpirono un boschetto che c'era da un lato, poi si fece silenzio. Poco dopo un terzo apparecchio comparve nel cielo. Il tenente Marcello, arrivato a Sirte, si era costruito sulla spiaggia davanti al mare una minuscola baracchetta e mentre accadeva tutto questo era rimasto, svegliato dalle bombe, sdraiato sul lettino in viva attenzione. Era la prima volta che assisteva a un bombardamento aereo dove loro stessi erano l'obiettivo. Il nuovo apparecchio passò sopra la baracchetta, cominciò un sibilo che si avvicinò, vi fu l'esplosione. Il dottor Marcello sentì poi in bocca della sabbia, non gli parve d'essere ferito. Rimase ancora così, sdraiato, soltanto divenne attentissimo e come vinto da una profonda malinconia che gli impediva di muoversi. Dopo alcuni secondi arrivò alla baracchetta un soldato che affannava dicendo «Ci sono tanti feriti, venga subito su!» Il dottor Marcello in fretta si vestì e corse all'accampamento della sezione di sanità, che non era distante più di 100 metri. Nel cielo c'era un pacato chiarore. La sezione di sanità occupava due stanze, un corridoio e un cortile. Arrivò un altro camion pieno di feriti e di morti. Un soldato di sanità che aveva in mano una lucerna faceva lume a chi entrava. Era per tutti il primo bombardamento. Fino allora la sezione era stata lontana dalla guerra. I medici cominciarono a dar ordini. I soldati ubbidivano con rapidità e commozione. Nel cortile furono messi i morti. Uno di questi sembrava dormisse a bocca aperta. Ci fu un fragore. Il terzo apparecchio aveva ancora sganciato. I feriti, che potevano muoversi da sé, si presentavano, parevano calmi, come in un'attesa, come in un sogno. Un giovane, che aveva asportato un braccio e una gamba ed era sdraiato su una barella, domandò pacatamente se con un apparecchio, una protesi, avrebbe potuto lavorare. Sembrava che il dolore fisico non esistesse. Era cambiato il concetto che si aveva della carne, divenuta impersonale. I medici lavavano, toglievano i brandelli, allacciavano, poi davano da fasciare agli infermieri. Tutto si svolgeva quasi in silenzio ed era venuto un ordine nelle diverse operazioni quasi perfetto. I morti, disposti nel cortile, sembravano bambini che dormono. È un senso che tutti l'avessero già saputo che questo doveva accadere. Già l'alba era nata da diverso tempo quando i medici smisero. Il dottor Marcello, dopo essersi tolto il sangue che si era aggrumato, specie sotto le unghie, e aver indugiato a parlare con gli altri medici, ridiscese alla baracchetta. Si sdraiò sul lettino da campo, chiuse gli occhi e immediatamente cominciò a rivedere. Il giovane morto con la testa bionda, le dita che non c'erano. Infatti un soldato, come spesso accade per la violenza del proiettile, non si era accorto. Credeva di essere ferito leggermente, soltanto alla fronte. Il dottor Marcello dice a lui, che imbambolato aspetta, «Vieni!» Osserva la ferita alla fronte. Il soldato alza la mano per toccarsela. Le dita non toccano perché non ci sono. Il soldato si guarda la mano, s'accorge. Dice come allora si svegliasse. «Ho perso le dita». Poi il soldato dall'occhio diviso in due dal rasoio di una scheggia. E poi gli altri, tutti, ogni particolare, come di nuovo fossero lì, davanti, precisi, vivi. Compissero gli stessi atti, suonassero le medesime parole. Il dottor Marcello sentì bussare alla baracchetta. Distolto dalla visione, disse, «Avanti!» Si presentò un soldato. «Mi manda il professore del nucleo chirurgico. Dice se va ad aiutarlo, perché il suo assistente era andato a Misurata e ancora non è tornato». Il dottor Marcello si alzò. Era già giorno alto. Nel ronzio del caldo percorse la spiaggia. Entrò nel minuscolo nucleo che aveva le pareti di latta, tinte di celeste. Una lampada elettrica molto forte illuminava il tavolo d'operazione. Si udiva fuori il motore che produceva l'elettricità. «Grazie di essere venuto. Proprio ora è arrivato il mio assistente. Mi dispiace averla disturbata per nulla». Il dottor Marcello disse che comunque era lieto di essere venuto. Si fermò a vedere operare. Sul lettino c'era un giovane nudo, ferito al torace. Dormiva sotto l'azione dell'etere. Un soldato in piedi, presso il tavolo, aveva il compito di scacciare le mosche che calavano avide sul sangue appena uscito. Poi il chirurgo tagliò con la tenaglia delle punte di ossa. «Facciamo un po' di toletta», disse. Il dottor Marcello, intanto, pensa alla carne, parola misteriosa. Aggiunge a se stesso che anche lui è di quella sostanza misteriosa. Il chirurgo, a causa del caldo, era quasi nudo. La luce elettrica, così viva, costretta da quattro pareti celesti, faceva sembrare di essere sotto il mare. Il dottor Marcello stette lì per circa un'ora, poi salutò aggiungendo che c'era da fare la sezione. Appena uscì, vide davanti al nucleo una lunga tenda che prima, quando era entrato, non c'era. Davanti alla tenda si muovevano dei soldati senza parlare tra loro. Dentro la tenda c'erano i 56 soldati morti. Erano disposti uno appresso all'altro, vestiti di panno verde. Il dottor Marcello si affaccia, vede un'onda verde. Si avvia la sezione, che è ormai l'ora di pranzo. I colleghi già mangiano. Si mette al suo posto. Vede la carne nei piatti. I minuti corrono, verrà la sera e dopo la notte. Forse ritorneranno gli apparecchi. Il cimitero di Sirte è su un lato della spiaggia, visibile da ogni punto. Finito il pranzo, il dottor Marcello, ritornando alla baracchetta, lo guarda di sfuggita. In colonia, nel pomeriggio, nasce un torpore. Il dottor Marcello si sdraia. Nel silenzio della baracchetta vede di nuovo i soldati che arrivano, silenziosi, con le ferite come se non fossero le loro. Il verde trabocca dalla lunga tenda. Giovani morti. Viene la sera. Durante il giorno i soldati si sono fatti ciascuno il proprio rifugio e più l'hanno difeso con la fantasia, sicché ora dentro quella misera buca scavata nell'arena si sentono più sicuri. La spiaggia di Sirte quella notte è disseminata di buche con dentro degli occhi aperti. Mentre il dottor Marcello è per avviarsi alla baracchetta, un soldato nell'ombra gli rivolge la parola. Il dottor Marcello si ferma. Il soldato vuole comunicargli il suo sgomento. «Ha visto la morte». non sapeva che ci fosse. Stanotte possono ritornare gli apparecchi. Manifesta una strana ira contro quei suoi compagni colpiti che gli hanno fatto vedere cos'è la guerra. Il dottor Marcello, ascoltando, rivede la lunga tenda con l'onda calda di verde. I soldati vivi si muovevano delicati intorno ai loro compagni e non si guardavano tra loro. Il dottor Marcello rientra nella sua baracchetta, che brilla vicino al mare. La notte è chiara per la luna. Il cimitero di Sirte è un terreno quadrato che si eleva sulla spiaggia, a destra, a 300 metri. È divenuto il centro del paese. Ieri mattina era grigio, ora in un angolo è fresco. I 56 giovani. La luna illumina. Il dottor Marcello, che non ha sonno, sente dentro il petto svolgersi una ordinata matassa di pensieri. Mancò la libertà. Fu impossibile amare. E nonostante, la vita era bella. Siamo soldati senza bandiera. E improvvisamente il dottor Marcello, ora con appassionata precisione, analizzò e poi pesò i sentimenti, l'educazione, la morale della vita italiana da lui conosciuta. E come se questa gli apparisse intagliata lì davanti, in un terso e notturno cielo, il dottor Marcello ebbe verso di lei un rimpianto e un amaro rimprovero verso se stesso. Fummo soltanto esseri che si respira. Sono belli i monti, le piante, sono belle le strade, ma non furono nostre. Strani spettatori che ora hanno obbligato a divenire attori e rimangono spettatori. Eppure questa guerra sta seminando dentro di noi qualcosa, una fede che maturerà. E il dottor Marcello, infervorato da questi pensieri, uscì fuori dalla baracchetta. Facendo pochi passi, raggiunse la riva del mare e si mise a camminare lungo la battima. Il mare era calmo. Una piccola onda ogni tanto frangeva la spuma coi raggi lunari. La spiaggia era in silenzio. Il dottor Marcello si trovò davanti al quadrilatero del cimitero. Si fermò. Alzò gli occhi verso i 56 giovani. Avrebbe ora voluto parlare con loro, come avesse qualcosa di urgente da dirgli. Ogni possibilità per fare questo era rotta, ma rimase, nonostante, lì fermo. Sorse e più volte rifuggì la domanda: dove erano ora i 56 giovani? Il dottor Marcello ritornò indietro verso la sua baracchetta e di nuovo le considerazioni sul passato e il futuro si agitarono nel suo animo come per il vento un campo pieno di frutti. Di nuovo si riavviò verso il quadrilatero e davanti a questo di nuovo si fermò. Avrebbe voluto dir loro qualche cosa, qualcosa che gli premeva il cuore. Continuò il dottor Marcello a percorrere quel tratto alcune volte, poi rientrò nella baracchetta. I soldati della divisione Faenza avevano finito di schierarsi nel raggio che era stato loro assegnato all'assedio di Tobruk, in sostituzione della divisione Ariete che era andata in riposo. Il generale Fonò provava piacere a ripetersi che infine la divisione era alla guerra, davanti al nemico, e se avesse avuto valore, come lo doveva avere, si sarebbe coperta di gloria, e lui era il generale di quella divisione. Il generale Fonò era un uomo di media statura, il volto pallido. Una rotonda pancetta gli spingeva in avanti la divisa. Era sorretto da due gambe piccole e storte che facevano ricordare certi discorsi penosi sul rachitismo e sui bambini che ne soffrono. Stranamente belli aveva gli occhi, neri e lucenti come quelli di un bambino. E in tutto il suo insieme il generale aveva l'aria di uno di quei collegiali che non vivono nella cordialità generale degli altri compagni. Comunque, il trasferimento e il cambio con l'altra divisione si erano effettuati senza alcun incidente, favoriti dall'assoluta calma di tutto il fronte. Verso sera, come anche le ultime confusioni e irritazioni erano svanite, nacque al comando di divisione un certo abbandono. quel matematico silenzio che regnava per il semicerchio dell'assedio, il deserto marmarico bianco e nudo, davano un senso di favola, facevano nascere l'idea che le guerre non erano mai esistite. Quella sera la mensa del comando luccicò di festa e quegli uomini in divisa, quasi tutti anziani, si chiamavano, esclamavano, ridevano e il vino piemontese, che il comandante della compagnia divisionale aveva fatto trovare sulla tavola, sciolse anche le più segrete malinconie. In cima alla tavola il generale presiedeva, anch'egli lieto, però non della ingenua ragione dei commensali. Fuori il semicerchio dell'assedio continuava in quella calma assoluta e la luna, che in Libia per la trasparenza dell'aria sembra più vicina alla terra, lo illuminava. Ma verso la fine del pranzo il viso del generale d'improvviso si segnò di una ruga. Il cimitero. Per Dio il cimitero! Esplose nel chiuso dell'anima. Siamo al fronte e non ho il cimitero. Se in questo momento muore un soldato non so dove metterlo. Lo devo mettere, anzi, alla Spezia. In quello della Spezia. Il generale Zondraghi riderà di me. Ancora il generale Fonò stette seduto in cima alla tavola, tra l'allegro vocio, ma continuò. Il cimitero nel clima fascista è ciò che dà la gloria. Per le commemorazioni. Con un colpo d'occhio si valuta il sacrificio. Non bisogna dirlo, ma è così. Per far commuovere ci vuole un bel cimitero. Citano il tuo nome, sei un eroe. Sarai promosso e ripromosso. Il generale fece un cenno al colonnello di stato maggiore che gli sedeva al lato. Il colonnello avvicinò la testa alla sua bocca. Il generale gli sussurrò: «Dite al capitano del genio che venga nel mio ufficio». E frettoloso si avviò a quella volta. L'ufficio del generale era una baracchetta lunga 3 metri. Ci si saliva per una corta scala già divenuta morbida di quella impalpabile sabbia, simile al licopodio, che il deserto stende per ogni dove. Nell'interno c'era soltanto un tavolo rudimentale che però, dietro, aveva una sedia fuori del comune, alta, robusta, tinta di nero, con 2 braccioli nodosi che venivano prepotentemente in fuori mostrando bocche spalancate di animali feroci. Sedia che chissà quali giri aveva fatto per arrivare sotto quel sedere. Ma probabilmente derivava dall'ufficio e dalla fantasia di un qualche governatore libico che l'aveva fatta costruire ispirandosi a cognizioni imperiali. Il capitano del genio, appena entrato, si irrigidì sull'attenti. «E vi ho chiamato per una questione importante», pronunciò il generale con quella sottile voce che per una piccola emozione si inaspriva. «Sedetevi», continuò. Il capitano del genio indugiò a eseguire quell'ordine. «Sedetevi, vi dico!» Si irritò il generale, che già si era cominciato a stizzire per qualche cosa che non voleva perdere tempo a indagare. «La nostra divisione», aggiunse dopo un breve silenzio, «è davanti al nemico. Presto ci sarà combattimento, anche se per ora c'è calma. È la guerra». Il capitano del genio, ancora stupito di essere stato tolto dalla mensa e per una ragione che ancora non capiva, rispose: «Signor sì». «Il tema delicato, per cui...» Ma qui il generale ruppe le inutili reticenze. «I nostri morti vanno seppelliti nel nostro cimitero». E gli sfuggì: «Che deve essere grande e bello». Il capitano del genio ripeté come in un sonno: «Signor sì». Il generale chinò gli occhi sul tavolo, poi li rialzò un attimo sul capitano, li ricalò esclamando dentro di sé: «È un imbecille». E si sentì invadere da una vampata di stizza, ma disse invece affettuoso: «Caro capitano, per seppellire i morti nel nostro cimitero ci vuole il cimitero. Noi non l'abbiamo». Il capitano continuava a guardare il generale. «Voi domani mattina comincerete i lavori del cimitero, che al più presto sarà fatto». In quella baracchetta si stabilì il silenzio, nel quale il capitano del genio mormorò: «Signor sì, signor generale». E poi accennò ad alzarsi, e poiché il generale non gli fece alcun cenno, si alzò, batté i tacchi nel saluto e uscì. Anche il giorno dopo l'assedio fu silenzioso. Il deserto sembrava un bianco osso al sole che da secoli non conosce sangue. Quando venne la notte, i soldati della divisione Faenza poggiarono la testa sui cuscini fatti con le loro giacche militari e dormirono serenamente. Sorse l'alba del terzo giorno e ancora della divisione Faenza non era caduto nessuno. Il capitano del genio era oberato di lavoro. Da ogni reparto della divisione gli venivano richieste di genieri e minatori. Tutti avevano constatato quanto era pietroso quel deserto e che senza l'aiuto degli specialisti era quasi impossibile fare le buche, e le buche in quel terreno piatto erano l'unica difesa contro le artiglierie che sicuramente prestissimo avrebbero cominciato a sparare. Il capitano del Genio rispondeva a quelle insistenti richieste come poteva. I suoi uomini erano sparsi a piccoli gruppi su tutto il fronte e spesso non se li vedeva tornare indietro perché gli stessi comandanti dei reparti li trattenevano in altre difese. Naturalmente il capitano del Genio, la mattina dopo il colloquio col generale, non si dimenticò del cimitero. Decise di cominciare la mattina stessa, se non che, anche per il da fare che aveva, rimandò di minuto in minuto. A mezzogiorno finalmente si levò quel peso, chiamò due soldati, che erano noti per ridere su tutto e che per essere toscani e usare il dialetto apparivano più sardonici di quello che erano, e disse loro: «Alle due precise presentatevi al sergente che vi condurrà sul posto». Poi chiamò il sergente e gli spiegò che, tra l'altro, il Genio doveva anche fare il cimitero, e presto, che il luogo doveva essere quello, al tale chilometro, e glielo indicò, che doveva essere tanti metri di larghezza, tanti di lunghezza, che intanto quel giorno tracciasse le fondamenta. Verso sera accadde il primo fatto. Un soldato della prima linea, di una compagnia situata presso il territorio della divisione Spezia, per un suo bisogno uscì fuori guardingo dalla buca, ma incappò con i piedi su una mina che, scoppiando, lo uccise. Poiché era vicino alla Spezia e la Faenza non aveva il cimitero, fu seppellito in quello della Spezia. Il generale seppe la notizia la mattina dopo, al rapporto, e sul momento non disse nulla. Si ritirò nel suo ufficio. Chiamò il colonnello di Stato Maggiore e gli ordinò di chiamargli immediatamente il capitano del Genio. Come il capitano fu nel suo ufficio, lo apostrofò ironicamente: «Avete fatto il cimitero?» Il capitano del Genio rispose: «Ho dato le prime istruzioni. Al battaglione c'è un gran lavoro. Tutti i reparti vogliono i minatori, la marmarica è pietrosa». «Lo dovevate avere fatto», scoppiò il generale. «Un nostro soldato è stato messo alla Spezia. Ecco il risultato». Il capitano del Genio, rigido sull'attenti, non trovò che rispondere. Il generale pronunciò: «Andate». Il generale, rimasto solo, di nuovo esclamò: «Questo capitano è un imbecille», e fece venire alla sua presenza il maggiore medico, dirigente la sanità della divisione. Il maggiore medico era uno dei personaggi più facili di quel tempo, avido di impadronirsi, sentimentale senza sentimenti, coraggioso fisicamente, era disposto a quell'arroganza che non si accorge di diventare ridicola. Culturalmente confuso e nazionalista, aveva però una strana mania: essere amato dai soldati come un padre, essere guardato come l'eroe buono e generoso. Nei suoi discorsi, infatti, ogni volta che si abbandonava, pronunciava spessissimo la parola «papà», e gli occhi gli si velavano. Di fisico era ancora robusto e agile, anche se ormai i capelli si erano brizzolati. Le mascelle, delle quali era fiero, aveva dure e sporgenti, e amava accentuare quel suo particolare fisico. In Libia era venuto volontario. Come lo chiamò il generale e gli disse di collaborare a un grande cimitero, si sentì scoppiare nella testa le punte di tutte le delusioni. Come? Lui, che era l'amato papà, doveva costruire un grandioso cimitero che era come dire ai soldati: «Ecco quel che vi faccio io, un bel cimitero. Andateci dentro». E intanto nel suo segreto così inveiva contro il generale: «Brutto porco, vuoi un grande cimitero per fare carriera e mi credi così stupido da essere io a fartelo». Come fanno le galline irate che arruffano le penne, così si scontrarono i segreti pensieri del maggiore mentre mormorava «Signor sì», e poi ripeté «Signor sì», e si trovò fuori dell'ufficio dopo aver battuto i tacchi, che non aveva pronunciato che quei monosillabi. Il generale, rimasto solo, giudicò non soddisfacente né il capitano del Genio né il maggiore medico, ufficiali del resto di complemento, e chiamò il colonnello De Ferrari, capo di Stato Maggiore. De Ferrari era un ufficiale di carriera e, per la verità, aveva un tenero cuore che il meccanismo militare tante volte nascondeva. Si presentò al suo generale, che mai aveva osato giudicare, come un austero automa. Il generale gli dette nella maniera più cruda l'ordine di vigilare sul cimitero, cimitero che immediatamente doveva essere fatto. Il colonnello, sull'attenti, corrugò le folte sopracciglia e salutò rigidamente. Anche nel quarto giorno il deserto non si macchiò di sangue. Il capitano del genio era ansiosamente richiesto da ogni reparto per far buche che sarebbero state l'unica difesa in quel terreno piano come una tavola. Accadde la quinta notte il primo fatto. In un'azione di pattuglia morirono 3 soldati. Per essere la compagnia a cui appartenevano vicino alla divisione Spezia, furono sotterrati in quel cimitero. Il comandante della loro compagnia mandò al comando di divisione questo fonogramma, che dopo aver narrato succintamente il fatto finiva: dietro fraterno invito, comando Spezia, gloriose salme seppellite loro cimitero. Il generale Fonò lesse il fonogramma. Per un attimo vide il generale Zondraghi. Alzando gli occhi dal fonogramma soggiunse dentro di sé: mi trovo tra un popolo di imbecilli. E poiché il colonnello di stato maggiore era fuori, in ispezione, chiamò il comandante della compagnia divisionale e gli disse: voi siete responsabile dei servizi della divisione. Se entro domani il cimitero della divisione non funziona, vi trasferisco in una unità di prima linea. La mattina dopo il colonnello De Ferrari, capo di Stato Maggiore, chiamò a rapporto il maggiore medico, dirigente del servizio sanitario, il capitano del genio, comandante del battaglione genieri e il comandante della compagnia divisionale. Il colonnello di Stato Maggiore pronunciò gli ordini che dovevano essere eseguiti. I presenti risposero: signor sì. Il dopo pranzo tutti i genieri, tolti dai lavori di difesa, furono comandati al cimitero. Il generale, verso sera, fece un rapidissimo e apparentemente distratto sopralluogo. La notte ci furono 2 morti, in seguito ad azione di artiglieria, e furono intanto messi in un angolo, per essere poi collocati al loro posto. Il fronte si stava accendendo. Il cimitero sorse bello e grande. Era a una distanza precisamente uguale dai 2 reggimenti che componevano la divisione. Il generale ne era soddisfatto. Si stava ora costruendo un altare nel suo mezzo. Ci voleva però una grande croce che a Bengasi, la città più vicina, non fu trovata. Fu mandato un camion a Tripoli per cercarla. Il camion, dopo aver percorso le centinaia di chilometri dell'andata e quelle del ritorno, arrivò con una croce di marmo nero a screzi d'oro, bellissima. Quando fu eretta nel mezzo del cimitero, parve uno schietto albero maestro di un bastimento appena varato. Il fronte era ormai in piena. Quel ragazzo che prima di morire chiamò il padre come fosse nella stanza accanto fu il 7º. Il maggiore medico fu il 22º. Il generale assisté alla cerimonia. Vi presenziarono tutti i soldati della sanità della divisione, vestiti di panno, con fasci e ogni altra buffetteria per l'importanza per loro di quella cerimonia. Il colonnello di Stato Maggiore, che non sapeva come, per la comunanza di tanti mesi, aveva preso ad amare il maggiore medico, alla cerimonia ruppe ogni burocrazia militare e piangeva davanti a tutti con abbandono. L'altare, ma più la croce, richiamava gli sguardi. Dopo nemmeno un mese era uno dei cimiteri più ordinati tra quelli delle divisioni disposte intorno all'assedio. Era meglio di quello della Spezia. Claudio Bigagli ha letto Il deserto della Libia di Mario Tobino. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Regia di Francesca Zammarelli. Ad alta voce @rai.it